grandiosa puntualità quella del Laurentino 38. In punto di nuovo in voce da Radio Pirata 38 in diretta dal Sesto Ponte. Questa volta non abbiamo trovato traffico. Arrivati puntuali, imparerete ad apprezzare quest'ora, per il momento neanche noi l'apprezziamo. Uno 0913 390 per entrare in contatto con la redazione di Radio Pirata 38. Abbiamo anche un contatto Facebook, Laurentino Borgata, ci trovate lì, potete scriverci, insomma preferiamo messaggi e WhatsApp. Però Terza puntata di Radio Pirata 38 in diretta dalla quarantena. E allora questa era una prima traccia introduttiva, un po' per far capire qual è l'antifona stasera. Iniziano ad arrivare le prime richieste, ne abbiamo in coda ancora un paio da ieri. E intanto iniziano a crescere gli ascolti, mai come il primo giorno, insomma oggi è la terza puntata e sappiamo che siete indaffarati il sabato sera, quindi non è che ci aspettiamo che state a casa a ascoltare Radio Pirata 38, ma anche oggi daremo del nostro meglio. L'intento, così ogni tanto riepiloghiamo il motivo per cui abbiamo riacceso questa radio, e delle prime sere di, insomma, restrizioni totali che si vivevano in città, abbiamo iniziato a mettere un po' di musica in balcone, a parlarci tra balconi, finestre e via dicendo. Insomma, abbiamo pensato che forse il metodo migliore fosse la radio piuttosto che soltanto una cassa che sbatteva contro le vostre finestre, e in questa maniera, con un numero di telefono, abbiamo pensato che si potesse creare una comunicazione un po' circolare fra qui noi del Sesto Ponte, ma anche nel quartiere. L'intento è un po' verificare che momenti ci stiamo vivendo, viverci insieme sicuramente questa oretta di intrattenimento, ma anche capire quali sono le necessità che via via riscontreremo. Le prime sono arrivate immediatamente appena riaccese le frequenze di Radio Pirata 38, ovvero la richiesta di dei PC per permettere a studenti del quartiere di seguire le lezioni online. Speriamo che qualcuno abbia raccolto questo appello. A quanto ne sappiamo, insomma, ci eravamo proposti anche per fare da ponte, non abbiamo grandi aggiornamenti, ma crediamo che ci sono anche altri canali. Abbiamo visto gruppi Facebook di scuole di quartiere, pensiamo che lì viaggi un pochino meglio la comunicazione. E allora questo tentativo radiofonico è un tentativo che proviamo a fare tutti insieme, vediamo se funziona. Noi l'impegno ce lo mettiamo anche qui, insomma, dentro lo squat in questi giorni siamo abbastanza indaffarati, stiamo ripristinando la biblioteca dopo lo sgombero della biblioteca del Quarto Ponte, e insomma stiamo rimettendo mano a tutti i volumi che abbiamo salvato durante lo sgombero. E poi c'è un orto che sta prendendo vita e quindi sicuro se magna, almeno abbiamo questa certezza. E che altro, sono comparsi i primi libri giù qui nelle panchine, abbiamo anche notato che molti sono già stati presi in prestito. Insomma, è una raccolta di libri che noi continueremo a fare per metterli in circolazione, ma anche se volete contribuire voi e lasciare i vostri libri preferiti da far leggere a chi in questi giorni, insomma, ne ha di tempo da spendere. Ecco, quello di leggersi un libro sicuramente è una delle maniere più interessanti per passare il tempo. 351-0913-390. Oggi apriremo anche una parentesi sull'Ater, restate all'ascolto, ancora un po' di musica e a grande richiesta, penso che siamo già sulle richieste, giusto? Andiamo avanti. Allora 351 09 13 390, imparerò anche a memoria questo numero di telefono, anzi ce lo tatueremo tutti quanti una volta quando potremo uscire di qui. E or dunque stanno arrivando le prime richieste e tra l'altro questa volta i gusti continuano a essere discutibili, ma noi vi apprezziamo per quello che siete. Innanzitutto volevamo ringraziare una persona che proprio ieri ci ha dedicato un bellissimo racconto, delle frasi su Laurentino 38. Grazie per il contributo, anche noi ti pensiamo. Piacere che in tanti stanno raccogliendo l'idea, lo spunto di farsi una radio streaming. Da qui siamo anche disposti a rilanciare il segnale oltre la nostra diretta, quindi fateci sapere, potrebbe essere una buona occasione per metterci in ponte tra diversi contesti, città, quartieri. Yeah. piano. Approfittiamo per i saluti, un salutone a Via Guareschi, un saluto a chi ci ascolta dal Messico e soprattutto la dedica di questa traccia era per Luca Di Ossia. Un abbraccione anche alle ragazzine che stanno sgambettando con sta musica, dai, dai Ossia! Mi piace questa cosa che avete preso quest'oretta come un'oretta di sfogo. Insomma, sono giornate complesse, in queste ore c'è stata anche una stretta sui controlli in strada, Roma è militarizzata, chi per, tra di noi ha avuto la necessità di spostarsi ha visto con i propri occhi quello che sta avvenendo, i veri e propri imbuti dove vengono controllate tutte le vetture. Nessuno ovviamente si diverte ad andare a lavorare o ad andare a dare una mano ai propri cari dall'altra parte della città. Quello che sicuramente fa un po' paura di queste giornate è che sono tante le testimonianze dell'atteggiamento delle forze dell'ordine, totalmente fuori controllo. Sono giornate difficili per tutte e tutti quanti. Ovviamente pensiamo che sia il caso anche di prenderci dei momenti di riflessione su atteggiamenti un po' compulsivi che potrebbero venire in mente dalle finestre delle case, come fare foto a persone che camminano in un parco e dare la responsabilità di essere untori e responsabili del contagio in un paese. Viviamo in un paese schiacciato dallo sfruttamento, dall'industria. Non è un caso quello che sta avvenendo in Nord Italia, con persone che sono tuttora obbligate ad andare a lavorare, a rischiare il contagio, per non parlare dell'attenzione totalmente cambiata, spostata dopo le rivolte che ci sono state nelle carceri. Non se ne parla quasi più, ma aumentano i contagi di persone costrette a stare ammassate dentro le celle con rischio altissimo di contagio. Quindi facciamo bene attenzione a individuare i responsabili del contagio piuttosto che i comportamenti individuali di persone che provano a prendere una boccata d'aria in queste giornate molto difficili. Ascoltiamoci ancora un po' di musica, abbandoniamo un po' i social network, regà, fanno male. Se scendevo prima Tiburtina, siamo in mille taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese. Il taxista che mi chiede, lei è milanese. Certo che anche voi dell'Inter state messi male. A noi ci resta solo il derby della capitale. Però Tomba di Nerone sta proprio in culandia. Come c'è finito la, mi scusi la domanda. Gli rispondo solamente, mi ci porta il cuore. Sceglie tutto, gioie, lacrime, pure ciao Fazietto. Chissà se stasera incontro il mio amico Cinghiale, che non è un soprannome, è proprio l'animale. Che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste, ma mi fa le feste. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito. Sami. Sei del nord che guidi da sfigato, mentre il fiume scorre lento tra campi di padel. Gli SH fanno a gara con le macchinette, su di 5 metri strade sempre troppo strette. Meglio starsene rinchiusi nel proprio quartiere, tranne sabato che andiamo tutti a pranzo al mare. C'ho un amico che sta alle ore però arrivarci un viaggio. C'ho un amico a un bar in centro ma non c'è parcheggio. E ne ha pure una Trastevere ma il varco è attivo. Ma è un amico e mi capisce quando arrivo. Mariolini alternativi, cotti ripuliti, gente che lavora duro e sola ben vestiti. 3 milioni di persone in questo frullatore che non puoi lasciare. In questa città c'è qualcosa che non ti fa mai sentire solo, anche quando vorrei dare un calcio a tutto, sa farsi bella e presentarsi col vestito buono e sussurrarmi nell'orecchio che si Sì, parlo un po' di parole perché innanzitutto sono bellissime le foto che ci arrivano dal Messico con gentaglia che vediamo in forma, è un piacere. Pezzi di cuore del Laurentino sparsi nel mondo. E niente, ma Max Pezzali purtroppo continua a Monza a darci dei consigli musicali davvero incredibili. Monza, ti vogliamo bene nonostante tutto. E poi abbiamo una dedica senza canzone. Proverò a interpretare questo testo nel migliore dei modi, non sono brava nella lettura. A tutte le persone che in questo momento stanno affrontando la paura non addossandola all'altro, all'altra. A tutte le persone che ci fanno i conti senza cedere al dagli all'untore. Abbasso i delatori, viva la solidarietà e la capacità di dire forse è la paura. Ci vuole coraggio per ammettere la paura. Grazie, un abbraccione a chi ci scrive con queste parole che facciamo nostre, le ripeteremo almeno ogni 5 minuti. Ok, later. My people, now well done. Welcome to another special edition of We Don't Catch 'Em. You know how we do it for this program. If you dey suspect say your man or your woman dey play ball outside, this is the program to come. For today edition, nero, one special woman, fine girl, fine anyhow, dey suspect say her man dey chop ogbono outside. The man like egusi soup. Instead of him to choose egusi or ogbono, he dey mix the two together. As a matter of fact, it be like say this man dey mix three different kind of soup together. So now today we go know. Say I with the cry, they see road. Come with me, make we go bust down. Ha ha. Abogodo eh. Stella bobo panga bi. Piccolo, vieni qui che balliamo insieme. Yeah, me holiday. It's a spicy baby. Johnny leave me follow since yeah. And I don't know what to do. And he talk say I no do am. Like the way since yeah they do. Johnny give uche bele. He talk say he want marry. This is not for me. Johnny do me corny. Johnny do me corny. He's doing me this, he's doing me that. But I know what's him on me. He go Canada, he go Tokyo. Yesterday he say he dey Morocco. He dance the sicko, he sing a willow. Na lie, na lie, na Pinocchio. This one na gobe. Original gobe. Piccolo Cavallino insieme a te fino alla rivoluzione. So today we want to ask you, this thing what you do, you think say good to break half of more than 4 million, Can't give one belle, promise another one marriage. Wait till you get to talk for this matter. Not enough. But these women, they say they know you, you friend them, and will come still see you for a quarrel with another one. You want to say you don't know these four women? Eh? Look the four of them where, plus the one we carry loot. You know them. I don't know them. Allora, un ringraziamento speciale a Torpignattara, Lato Certosa, che ognuno insomma ha i propri quartieri e sottoquartieri, ma insomma siamo con voi, grazie mille per questa dedica. C'è Piccolo Cavallino iper eccitato che finalmente è al centro dell'attenzione, come se non lo fosse mai. E allora, oggi abbiamo aperto un po' i quotidiani come tutti d'altronde, e ci sono delle splendide immagini, 17, con operatori ATER che sanificano i palazzi. Si parla di interventi iniziati a Tor Bella Monaca, Corviale, Tor Sapienza, Valle Aurelia, Ponte di Nona. Poi insomma siamo andati a vedere un po' il sito dell'ATER, c'è una splendida mappa in cui vengono raccontati tutti gli interventi di sanitificazione, immagino si dica, e siamo poi andati a zoomare sul Laurentino 38, tra l'altro insomma gli immobili sono molto più di quelli segnalati, ma siamo arrivati a Via Giuliotti, è uno dei quattro che sono stati segnalati, insomma sapete è la via, una delle vie del Sesto Ponte. Si parla di un intervento di sanitificazione avvenuto il 19 marzo e è segnalato come avvenuto, quindi siccome qua noi siamo murati qui dentro e magari non ci accorgiamo, chiediamo al Sesto Ponte di dirci il vero. Questo intervento con omini in tuta bianca, a noi le tute bianche sapete che mai piaciute, però ci stanno insomma sti Ghostbuster con degli spruzzini, e se sono mai arrivati qua scriveteci 351-09-13390 e ci sarebbe tutta Ghostbusters, ma non era in programma, mi scuso con il DJ, anzi procediamo con le vostre selezioni, sono fantastiche, questa sera vi state davvero sbizzarrendo. Intanto Laurentino 38, un abbraccio forte, 351-09-13-390 per chiunque avesse visto le tute bianche in quartiere. Una dedicona ai senza numero, dai, il nostro collettivo preferito. Saluto dalla trentottena. 20 minuti alle 20 qui dal 38 Sesto Ponte, Radio Pirata 38. Un saluto al Secco. Dai Secco, che bello che ci pensi e ci ascolti. Questa è dedicata a tutti i solidali di Roma contro la delazione. Stringiamo i denti fino alla rivoluzione. intanto vediamo crescere gli ascolti qui su Radio Pirata 38. Vedo che insomma stiamo raggiungendo buoni numeri. Non vogliamo attivare una competizione con le altre radio che comunque sono un po' scarsette. Radio Pirata 38, la terza puntata qui dal Sesto Ponte, Laurentino 38. Un'oretta de sfogo, come ce la viviamo insieme. Abbiamo diversi vocali che ci arrivano, maledetti voi. Ve ne mandiamo uno perché ci sembra davvero carino ed è rivolto a tutti i bambini del Laurentino. Voglio salutare tutti i bambini in Italia che stanno in quarantena. Saluti da Messico! Un bellissimo saluto dal Messico, che bello! Un saluto affettuosissimo. Tra l'altro vi stiamo pensando forte, io in questi giorni un po' parlando di della cura del corpo, della salute. Se stiamo a mangiare le mani che non abbiamo mai attivato qualcosa d'autonomo che non dovesse dipendere dallo Stato per la sanità. E dai, prendiamo stimolo, spunto, dai. Viaguareschi, dai, Viaguareschi, te volemo bene comunque. Questa la dedichiamo, anzi la dedica qualcuno a Luca di Amsterdam. Forza Luca, sculetta. Supernature. poco alla conclusione di quest'ora insieme, sappiamo che vi state sbizzarrendo nelle vostre richieste, intanto vi ripetiamo il numero di telefono 351 0913 390. Insomma, oltre alla musica, mandateci messaggi, mandateci pensieri che vi passano per la testa. E uno ce l'abbiamo avuto, è stato incredibile, secondo me si dovrebbe andare un po' su quella strada. Provate a inviarci qualche pensiero che vi percorre la mente in questi giorni difficili, difficilissimi. Dai Enrico Reossia, qua questa è tutta dedicata a te. E allora bene, abbiamo spazio per un'ultima canzone e poi, come tutte e tutti voi, torneremo ad ascoltare pessima musica, ognuno a casa propria. Anzi, vi consigliamo di restare all'ascolto, perché tra l'altro sta radio continua a streamare giorno e notte, può fare compagnia. Domani vi manderemo qualche contributo audio pescato da altre emittenti un po' vicino a noi, perché in questi giorni stanno uscendo contributi piuttosto utili nel silenzio delle nostre case. Di domenica dovrete avere un po' più di pazienza, magari ci prendiamo 2 ore, mandiamo sia l'audio che la musica. Ancora una canzone e poi andiamo a concludere, vi prego. It is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. Allora dai, concludiamo questa diretta parlata che poi si prosegue con la musica. Un saluto a chi ha contribuito a questa oretta insieme. Insomma, godiamoci anche la prossima giornata, che qua sembra che lunedì il Ministero dell'Interno se ne esca con delle novità tutte nuove per noi. Per ora le immagini che arrivano da altre città sono di militari che pattugliano e rastrellano le strade. Abbiamo visto convogli militari in scena a Bergamo per portare via le salme delle persone morte. Ci chiediamo il senso di questa, di questo spettacolo dell'esercito. Saranno giorni complicati e questi provvedimenti che lo Stato sta prendendo sarà dura ricacciarli indietro quando il pericolo del contagio sarà passato. Vediamo un attimo di leggerle insieme queste cose, di capirle insieme. Un saluto a tutti, un bacione al quartiere Laurentino 38. Resta attivo il contatto Facebook Laurentino Borgata, mentre per il numero di telefono torniamo attivi domani alle 19. 351 09 13 390. Un abbraccio a tutta la città che ha contribuito da tutto il mondo questa sera, È uguale, sì. Ma ognuno ha un diritto di prendersi la cinese, anche il Papa, eh? Anche il Papa ha preso la cinese. Perché lui è meglio di noi. Appunto. Allora. Cioè, meglio di noi nel senso più... Come posso dire? Cioè... Nel senso più raffinato, più curato, più certo, guardato. Più delicato, certo. Capito? Poi tanto l'uomo in Papa se ne fa un altro. Certo. Molti mi sente di... Vabbè, Mauri, ti sto ascoltando, tu mandi sempre dei bei brani. Grazie. E faccio qualche salutino, eh. Sì. Qui la linea non si riesce a prendere mai. A mattina c'ho sonno. A sera de volte c'ho sonno, de volte no. Sì. E allora, comunque, prima di tutto voglio fare tante condoglianze a Silvana Verde di Tore Maura. Sì. Per la mamma. Perché la mamma è la mamma e non c'è età, guarda, c'è pure 1000 anni. Cioè io ti tengo nel cuore perché questo l'ho provato anch'io. Sì. E unito al tuo dolore, Silvana mia, purtroppo la vita è questa qua. Sì. Un salutone, un abbraccio forte forte. Bene. Santina con un bacione grosso grosso e nonna Bitta. Certo. Roberta dell'Euro, la mia carissima amica. Bene. E Maria dell'Euro, che non ho più sentito. Elena e Gino di Ostia Antica e Piera dei Gracchi con un bacione grosso grosso. Bene. Poi Lucia della Marconi, senza meno il lavoro non mi sente, Renata della Marconi. Sì. E mamma Rossana di Sergio. Sì. E poi insomma Adriana. Sì. Adriana di Enrico Fermi, di Monteverde. Di... Sì. Con i suoi figli, la sua famiglia. E poi insomma Margherita della Marconi. Sì. Maria della Laurentina. Sì. Rosa Emilia di Cinecittà che ho sentito adesso. Bene. Un saluto grosso grosso. Silvia e Laurelia con bacione. Silvana dell'Alberone. Poi chi posso salutare? Marcella del Trionfale e Vera Vera. Intanto fai i saluti perché è venuta gente, capito Isa? Eh? Fai i saluti, mi informo chi è questa gente che è qui, capito? Non ti capisco. Ci sono, è venuta a trovarci, non so chi è. Chi è? Intanto fai i saluti, poi ecco, te lo dico. Sì. Adriana Romana One. E Iole di Ostia con il suo bel Mick e tutta la sua famiglia, poi Pina e Nino Tufoni, sempre di Ostia, una padre di Lomentano, Annito Otello con la sua bella famiglia, poi posso salutare, non mi ricordo più, Anna e la sua bella Luana di Piazza Bologna con bacione grosso grosso. Anna, poi Lena, Giulio, Lucia, tutta la famiglia Fontana con Sela, un bacione anche a lei, Rosa Mura e famiglia, Teresa della Nunzia Verna, Gianni e Michele di Boscaccio che non si scorda mai di noi, Banda di Trastevere e Tiziana di Trastevere con la sua bella nipotina Pamela, poi pochi. Gloria del Latte Latino che non sento più, forse lavora. Fiorella di Marino con bacione, Gisella di Monte Rotondo, Giselta, Anna del Trullo, Gita del Trullo, Giulia di Sorano, Giuliana di Sorano penso che sia, o Giuliana di Morena. Ori, mandino. Fai i saluti, fai. Sì, sì. Vera di Morena, Tadia, Gabriella, Giuliano, Masha, Trento, la Sremiglia con tanti bacioni, Rosina di San Lorenzo, Rinetta con la sua carissima amica e famiglia, Teresa di Palestrina, Maria Teresa, un bacione grosso grosso grosso a te, Maria di Cordiale, la sua bella Chantal, Ada di Cortella Monica, non te ne approfitta tanto, Monica, Caterina di Cortella Monica, Isa, tutta Cortella Monica, Te sei approfittata, Mi sono approfittata, c'era giù. D'accordo. Voglio delle cose, un bacione, poi abbraccio tutti. Saluti. E che vuoi che ti dico? Una buona giornata per tutti.